Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ma se vuoi stare qua, vuoi mangiare, devi lavorare, hai capito? Guardi, mi fa male, eh? Ma che te credi che io ti faccio io da servattina? Eh no, bella mia, è finita la pazzia. Sei tu che vai a fare tu da serva mia. Perché la femmina è nata per fare la serva all'uomo e non il contrario. Guardi, mi fa malissimo. E te farò ancora più male assai a te, finché non hai capito bene chi è il padrone. Ti ho fatto cosolire io, che cos'è? Un uomo. Tu non l'hai conosciuto mai, un uomo vero? Schiavo già ci sei, ma schiavo d'amore dove diventare. Il rude e rozzo, diciamo la verità, operaio in Luisa deserta con la signora radical chic milanese, a un certo punto le farà capire chi è veramente un uomo, tanto che lei cederà e chiederà di essere sodomizzata, il massimo cedimento possibile. Ecco, questo diciamo è una versione della Wertmüller di quello che è il maschio selvatico e quello che è il rapporto di sottomissione di una donna nei confronti di un uomo. Lo presentava in epoche lontane, in epoche in cui era il massimo paradosso della mascolinità deleteria, ma oggi bisogna riflettere, riflettiamo comunque sulla scomparsa del maschio. Lo dico non soltanto per difendere una categoria, assolutamente, non ho nessun interesse, nessuna voglia, nessun desiderio di ritrovarmi con compagni di mascolinità racchiuso in circoli di veri uomini. Da molto tempo mi piace sentirmi solo a tutti i livelli e verso tutti i generi, mi permette di essere molto più lucido nelle mie considerazioni. Però è un discorso comunque da fare. In questo momento prendete conto della contrapposizione massima che stiamo avendo con un mondo che riteniamo, ha ragione, in quella manifestazione perlomeno ostile, incivile, lontano dalla nostra determinazione. Abbiamo però di fronte dei maschi ben diversi da quelli che troviamo, incontriamo, con cui ci confrontiamo alle nostre latitudini. Maschi guerrieri, maschi spietati, maschi che prendono i maschi che cedono alla tentazione della loro virilità indiscutibile, li buttano dai palazzi, li fanno morire. Maschi decapitano le teste, dimostrano che la decapitazione in realtà è l'unico atto vero, radicale, concreto in cui si possa determinare la fine di un nemico. Gli stacchi la testa e gliela metti sopra. Maschi che educano i loro bambini alla guerra, all'uccisione, al comportamento selvaggio sin dalla nascita. Bambini che sparano in testa ai loro prigionieri per dimostrare che sono guerrieri. Questo è qualcosa che sembra non appartenere alla nostra civilizzazione, qualcosa di cui ci sentiamo totalmente diversi. E che abbiamo nelle nostre latitudini? Abbiamo una sorta di surrogato della mascolinità che crea problemi alle donne stesse, tanto che quando appare una versione patinata in totale fiction di un uomo che sottomette una donna a colpi di frustino sulle natiche e di sottomissione amorosa, ma semplicemente perché ha un bel aereo, tanti bei soldi, fa fare una bella vita, donne dicono: ma sì, tu non capisci, quella è una storia d'amore. Mi sono incontrato con molte amiche, come vi rendete conto, decenni di lotta nelle piazze a bruciare reggiseni e a dire che il maschio è uno stupratore, un violento, dovete essere equiparate in un diritto di esistenza e di autodeterminazione, poi impazzite per un povero scemo siliconato che vi prende a frustate sulle chiappe e dite che quello è un gesto d'amore. 800240024, il tema è questo, sin troppo esplicito e sin troppo chiaro. Gli esempi delle donne tipo Bratz non hanno alter ego nel mondo maschile, perché essenzialmente l'uomo si è allevato dalla natura. Diciamo che il mondo maschile è legato alla caccia, alla raccolta di funghi oppure alle camminate in montagna. Da quando l'uomo si è trasferito in città, tutto questo viene fuorviato dalla natura maschile, e per questo pure che si hanno sempre più omosessuali e meno maschi in giro. 800240024, gli uomini non sono più tali perché non vanno a funghi e asparagi. Questo era il parere sintetizzato di un nostro ascoltatore, ma in realtà c'è una situazione molto più complessa e tutto sommato c'è un sostrato simbolico molto più interessante. Claudio Risè, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Claudio Risè, psicoterapeuta, psicanalista, autore del libro Il maschio selvatico 2. È un tema che lui segue da un punto di vista professionale, per passione anche individuale, a molto tempo, La forza vitale dell'istinto maschile, edizioni San Paolo. Claudio Risè, ci diamo del tu perché ci conosciamo, abbiamo più volte parlato di questo tema del maschio perduto. ha un barlume di ragione questo ascoltatore quando dice che in realtà l'abbandonare la selva, il luogo principale in cui si crea e si fortifica la condizione di mascolinità, ha determinato una sorta di incertezza di maschio? Ma io credo di sì, è una questione anche antica e molto importante. Leonardo da Vinci diceva: il selvatico è colui che si salva, cioè lo considerava l'uomo capace di vincere le situazioni anche di estrema difficoltà, proprio perché conosce la selva e conosce il limite che la selva propone all'uomo e insieme le grandi forze che gli mette a disposizione. Però per paradosso, Claudio, abbiamo oggi maschi che fanno sport estremi, giocano a calcetto e si rompono i legamenti in percentuale altissima tutti i giorni. Sembra che vanno a sciare fuori pista, vanno nello snowboard, fanno vacanze rischiosissime. C'è una sorta di succedaneo soltanto esteriore di quella che è la vera prova iniziatica che faceva il ragazzo che entrava in un luogo pericoloso e ne usciva vincitore? È un tentativo estremo, tutti questi sono tentativi estremi proprio per rimpiazzare questa iniziazione quotidiana al mondo maschile, alla selva, alla prova di resistenza anche più che di forza, che nella quale si forgiava, si sviluppava la psiche maschile e anche la capacità di aiutare e donare all'altro, perché le due cose vanno insieme, il mondo selvatico e il mondo del dono. Le leggende sul selvatico fanno sempre vedere che lui dona. Dimmi Gianluca. Se no, senti, c'ho già degli ascoltatori che mi stanno criticando per l'approccio a questa trasmissione, ma io il problema lo sento in quanto non dico confidente, ma attento ascoltatore dei discorsi delle donne. Donne di tutte le età, donne che vanno nell'età media dai 35 ai 60 anni, che mi dicono: in realtà è proprio vero, gli uomini non ci sono più. Non è che cercano la rappresentazione posticcia del maschio, che ne so, che può essere Rocco Siffredi all'Isola dei Famosi, che va e piange come un bambino e fa intravedere la sua appendice asinina, perché in fondo quello è il punctum della trasmissione. No, è tutt'altra cosa. Un uomo che sappia essere tale, che è indecifrabile, indescrivibile, impalpabile capire esattamente a quale riferimento noi, volonterosi di essere maschi, diversamente sadici, senza bisogno di prendere a frustato, appendere le persone alle travi, essere più vicini a un modello che soddisfi le donne. Sentiamo qualche ascoltatore. Marco, buongiorno. Marco. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Io volevo solo dire che secondo me in realtà questo modello di maschio che sottomette le donne è ancora molto richiesto, nel senso che poiché la fantasia sessuale numero uno delle donne è essere sottomesse, e lei lo sa, ha un supporto statistico poderoso per saperlo. Sì. Beh, poderoso no, però un pochino sì, e comunque le dico che è vero, perché poi alla fine, anzi, tutta questa mania, questa moda dell'essere un po' così effeminati avvantaggia tutti gli altri che in realtà sono ben contenti di essere, diciamo, avere ampie praterie a disposizione per la caccia. Sì, la vecchia diciamo facezia d'osteria, sì, più gay ci sono e più terreno libero abbiamo noi, quindi in realtà il maschio selvaggio non è un omofobo, anzi è contento, è molto felice no. Che ci siano tanti gay. Affatto, sì. Giulio. Sì, buongiorno. E io volevo dire che secondo me la figura del maschio dominante è andata un po' sparendo, perché certi movimenti che ci sono stati soprattutto intorno agli anni 60, 68... Lei quanti anni ha, Giulio? Quanti anni? Dai. Io 23, quindi non era manco nato, sì. Non li ho visti, però ne ho letto e devo dire che secondo me in quegli anni si è iniziata un po' a affermare un po' l'idea che il maschio dominante fosse qualcosa di negativo, perché si andava, come dire, perché il maschio dominante era un po' il simbolo del patriarcato, di tutte quelle di una certa modello di società, contro i quali sia i movimenti femministi che anche quelli non necessariamente femministi si sono schierati, quindi diciamo che secondo me è andata un po'... Sì, però dopo la storia a un certo punto è cambiata, diciamo, fa parte di una sorta di icona romantica del passato. Oggi il sindaco Marino dice: leviamo i manifesti sessisti, la massima determinazione della discriminazione di genere. Mi sembra un po' pochino. Claudio Risè, rispetto a questa idea generalizzata, ma in realtà si appoggia sul successo di botteghino di una serie di film e di alcuni libri venduti, è realmente esistente questa voglia di sottomissione? Tu parli di sottomissione nel tuo libro, una cosa molto, è un tema fondamentale, e fondamentale anche alla luce dell'attualità. Houellebecq nel suo libro Sottomissione parla proprio di questo, della liberazione del maschio. Finalmente sì, mi sottometto, almeno posso fare il maschio tranquillamente. Ma guarda, la sottomissione del selvatico è la sottomissione alla grandezza della natura, al programma in qualche modo naturale per l'uomo, che non c'entra assolutamente niente con la dominazione dell'uomo sulla donna. Tra l'altro, alla figura del maschio selvatico si contrappone quella della donna selvatica, che viene dal bosco e anche lei porta agli uomini i suoi saperi sulla coltivazione, sulla crescita, regala il filo da tessere e quindi la tessitura. È tutta una serie di saperi molto primari, se, che possono sembrare assolutamente non attuali, ma senza i quali in realtà noi andiamo a imbarcarci dentro uno schema di sottomissioni, appunto, e di violenze continue e anche di povertà. Sai però com'è, Claudio, oggi davanti all'angolo cucina dell'IKEA c'è poco da inventarsi. Questo purtroppo è il drammatico problema, l'angustia degli spazi in cui viviamo il nostro rapporto. Melog, cronache meridiane. .800240024, stiamo parlando delle derive possibili e impossibili della mascolinità. Ne parliamo con Claudio Risè, che è psicoterapeuta e psicoanalista, che ha appena pubblicato uno dei suoi tanti libri dedicati a questo tema. Questo è Il maschio selvatico 2, la forza vitale dell'istinto maschile, edizioni San Paolo. Abbiamo vari ascoltatori che si trovano un po' sbilanciati nel poter definire quale sia l'esatto modello della mascolinità. Sentiamo intanto Salvatore velocemente, poi con Risè. Salvatore. Sì, buongiorno. Sì. Io penso questo, penso che in questo momento il maschio agisce per impulso, per emozioni e per istinto, e non agisce più per razionalità, che estremizzando è quello che lo differenzia dalle donne, che sono molto più emotive, molto più di pancia, e in situazioni estreme è invece l'uomo che prende la decisione, ma prende le decisioni razionali, anche il selvaggio, perché essendo razionale si sopravvive. Quindi ha perso questa sua capacità di raziocinio, che lo possiamo... L'ascolto. No, dico, nella situazione estrema è l'uomo, è il maschio che prende le decisioni, proprio perché abbandona gli impulsi, abbandona l'istinto, abbandona le emozioni e agisce secondo razionalità. Ma questa cosa qua si sta perdendo. Sì, si sta un po' confondendo, diciamo sì, che in assoluto, per come è organizzata la società arcaica, così doveva essere. Anche gli studiosi del cervello, come pure noi maschi, dovremmo avere comunque una parte più sviluppata sul raziocinio e meno sulle emozioni. Diciamo, l'uomo si abbandona più alle emozioni. Claudio Risè, rispetto a quello che ti avevo detto prima, rispetto al mondo con cui ci contrapponiamo, noi abbiamo di fronte degli esempi di quelli che possono sembrare per assurdi super maschioni per eccellenza, che sono i guerriglieri dell'ISIS. Ma cosa hanno a che fare con loro in realtà il modello che tu stai delimitando e in parte raccontando con nostalgia di un mondo passato che è difficile trovare oggi? Ecco, però guarda, nostalgia fino a un certo punto, perché per esempio in America le forest therapy si fanno il 2x3, cioè l'andare nella wilderness, nelle zone ancora selvagge, proprio per guarire delle malattie, diciamo, della civilizzazione che sono in continua crescita. Non ci sono dei modelli, diciamo, nel mondo occidentale civilizzato che si rifanno, diciamo, a quello che tu stai pensando, ragionando e scrivendo? Ma per esempio, se io vedo il mio figlio più giovane che ha 20 anni e tutti i suoi amici fanno una vita intanto molto socializzata e molto affettiva tra di loro, quindi molto poco secondo questo modello di competizione assoluta, e poi ascoltano il mondo selvatico, anzi cercano poi di metterlo anche in musica, in parole, ti faccio una domanda molto provocatoria. Sarebbero capaci, mio figlio non sarebbe capace, il grande, di andare in mezzo a un bosco, farsi un po' di legna, accendere un fuoco non pericoloso e cucinarsi magari un po' di carne alla brace da soli? E loro sogno, il loro sogno, e stanno anche molto attenti appunto a come trattano il bosco. Sono educati in quella direzione, probabilmente. Sì, ma guarda che anche nelle grandi città, per certi versi, questa attenzione al recupero della natura come qualcosa che ci fa vivere, non in chiave romantica, è che se te ne allontani ti ammali, e quindi loro la cercano. Lo sai qual è l'abominio di tutto ciò? Quegli apparecchi con le rotelle, perfetti cromati per fare il barbecue, che se ci si mette dentro della carbonella sintetica e si accendono con lanciafiamme, in cui tutti diventano dei cucinieri di carne. Ecco, da quando ci sono quelli, nelle seconde case tutti sanno cucinare, ma nessuno è capace a far legna, a preparare un fuoco, certo, è chiaro. Una delle attività del selvatico è quella di controllare che i contadini non portino via troppa legna, un po' sì, ma troppa no, perché questo fa male alla foresta, perché ha bisogno di un po' di legna. Però qualcosa di simbolico c'è. Tu sai, Cristo, conosci l'attualità, sai che oggi il movimento estetico hipster, le nostre città sono piene di barboni incolti, ma in realtà quello è un modello che in America esisteva, quel boscaiolo mitico gigante che va in giro con una mucca colorata d'azzurro, ci si rifà comunque all'archetipo del boscaiolo che fonda gli Stati Uniti. Sì, in qualche modo quello è ancora un portatore di forza, no? Qui nel suo aspetto degenerato e pazzo diventa il terrorista che decapita la gente. Quindi noi dobbiamo recuperare, secondo me, proprio questa conoscenza, questo sapere della selva, che è quello che diceva Leonardo, permette al selvatico di salvarsi e di salvare gli altri. Anche perché il selvatico non cerca la fine eroica e non cerca la trascendenza, vuole vivere bene la sua vita e ha rispetto della natura che lo circonda. Ma certo, non c'entra niente. Cioè, lui le 72 le vergini magari se le va a cercare in giro per il bosco, ma non è che spera di averle facendo una cosa. Quello lì è il cacciatore selvatico, che è uno che anzi litiga col selvatico, perché è una specie di matto che va in giro con delle trombe di notte e fa le donne a pezzi. È visto malissimo nel mondo della selva. Riccardo, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì. Salve. Quello che ci dobbiamo dire, che secondo me può essere in parte una concausa della perdita del maschio, è il fatto che oggi c'è un po' una iperspecializzazione in tutti i campi, in tutte le cose, perciò appunto chi ha studiato per diventare o avvocato o idraulico non sa assolutamente niente di muratura o di un'altra qualsiasi attività. Non c'è più il maschio tutto fare, dice. Sì, nel senso, gli anziani del mio paese, quelli nati prima della Seconda Guerra Mondiale, diciamo, fanno che tutto, la fortuna, cioè, di conoscere, sapevano sia incalmare una vita, riparare un motore, costruirsi la casa completamente con le loro mani, senza neanche una betoniera, cioè. E al giorno d'oggi invece non mi compete, non ho studiato per questo, perciò non devo... Sacrosanto, Risè, una domanda. Oggi un uomo potrebbe raccogliere frutti d'amore e di passione dicendo: vengo a casa tua e ti cambio la cassetta Geberit del gabinetto, piuttosto che dire ti porto una fiera che ho appena cacciato, sei d'accordo? Beh sì, un gran successo, però deve saper fare anche delle altre cose, però questa è una parte importante. L'uomo ha perso manualità, ha perso dimensione del selvatico, ha perso capacità di essere tale, di confrontarsi. Questo è uno dei motivi per cui il maschio selvatico rimane un modello molto allucinato alle menti femminili, e in realtà ancora, almeno alle nostre latitudini, ci dice Risè che in America è diverso, poco perseguito come attività costante quotidiana dei nostri uomini. Grazie Claudio Risè, alla prossima.